Ed eccoci alla prima puntata di Otra, con la Otra Date, che sono io. Si parla appunto anche con la mia trasmissione di Halloween. La trasmissione sarà ogni mercoledì sera intorno alle 10:30. Si chiama 8 Hz perché è una frequenza un po' magica, ne vengono dette di cotte e di crude. È una frequenza che si suppone agisca durante il dormiveglia, durante il sonno, durante i sogni. Abbiamo ascoltato il pezzo classicone di John Carpenter, il theme di Halloween. Appunto il tema sarà sia Halloween che l'horror in generale, per questi, insomma, questa notte. Mettiamo subito un altro pezzo di Carpenter, perché è un compositore, quasi tutte le colonne sonore dei film sono state fatte da lui. Ha usato sempre synth, cose molto particolari e di nicchia. Adesso mettiamo un pezzo di un disco che ha fatto nel 2015, che si chiama Lost Dam, e fece subito dopo il Lost Dams Remix. Questo remix è di un pezzo di John Carpenter remixato da Prurient, che è un tipo americano che fa noise da un po' di anni. insomma, avete capito, il signorino John Carpenter con chi se la fa. Plurienter è un musicista abbastanza estremo, e comunque anche le composizioni di Carpenter sono abbastanza impressionanti. Facendo un legame con Halloween di John Carpenter, lo colleghiamo al remake di Halloween che ha fatto sia Halloween il primo che il secondo, Rob Zombie. Ci interessa di lui il fatto che, a parte i film che non sono indegni, però ha scelto una colonna sonora molto carina per entrambi i film. Adesso ne ascoltiamo due di seguito. Una è il famoso pezzo Don't Fear the Reaper, The Blue Easter Cult, che però mettiamo in una versione di Clint Ruin e Lidia Lunch, perché mi piaceva di più, perché siamo scollegati un po'. E subito dopo America Rockers, degli Scream, che era un gruppo storico degli anni 80 che usciva per la Discord. Quindi ascoltiamoci subito. Thank you. Mararate is fake too. Hey. Puntata parliamo dei Misfits ora, che tanto ci toccava prima o poi, perché visto che insomma ci hanno fatto una carriera sull'orrore e quant'altro. Quindi i Misfits, la grande domanda: sono un progetto baraccone o meno? Ci piacerebbe saperlo, ci fosse un dibattito esperto da qualche parte. Comunque, il pezzo che metteremo ora si chiama appunto Halloween, è un pezzo del 1981, lo ascoltiamo subito, poi magari diciamo qualcosa anche sui pezzi che ci saranno dopo a venire. Faces in the night, I remember Halloween. Dead cats at the football, little dead or on his own. I remember Halloween. Brown loose vertigo, where skeleton laughing Halloween dei Misfits, un pezzo speed, aprendo una parentesi spazio-temporale. Vorrei farvi ascoltare, ma sì, facciamo due pezzi di David Paggio, che mi sta molto simpatico, sarebbe il chitarrista degli Slint, che nei suoi deliri intimi fece un disco che è tutto di cover acustiche, chitarra e voce e basta, proprio dei Misfits, che si chiama Scream With Me. È un disco del 2009. Andiamo ad ascoltare due pezzi a dritto, appunto dei Misfits coverizzati. Il disco si chiama solo Paggio, ma lui lo potete trovare anche come Papa M ed altri mille nomi. Il primo è Horror Business, il secondo è Hybrid Moments. Thank you. Due pezzi di David Paso tratti da Scream With Me, nel quale coverizza i brani dei Misfits. Ci arrivano messaggi che si sente una massa incredibile, questo perché siamo un fenomeno di massa, ecco, ce la svandiamo così. Ci manda questi messaggi Bad Girl, che è amico musicista e essendo fonico è molto perfettino, perché insomma non gli va giù che si sentano queste cose, comunque speriamo che si risolvano piano piano. Adesso vorrei mettere un brano che è molto importante, è un pezzo dei Dead Kennedys quando erano ancora seri, appunto si chiamava Halloween perché la puntata è su Halloween, bisogna ricordarselo. E dà un po' anche il titolo a questa puntata, che si chiama Why Don't You Take Your Social Regulation. Fa una critica abbastanza feroce a quello che è Halloween, che alla fine è una stupidissima festa americana. Se vi ascoltate il testo lo capite, ve lo andate a cercare, tra le varie frasi, per esempio dice che te ti vesti da pagliaccio solo questa sera e dimostri quello che sei un pagliaccio, oppure andando ancora più su, stasera fai così ma gli altri giorni vai vestito per benino al lavoro, ti comporti per benino con la tua ragazza, e invece questa notte fai una sorta di stupido ribelle innocuo, piano magari di sangue, fa il cattivo quando invece se sono schiacciato dalla vita. Beh, che altro dire, andiamocelo ad ascoltare. See your brain, better nothing strange. Grande Yellow Biafra, Yellow Biafra, del resto viene a tutti i concerti punk hardcore della zona, anche dei paesini minori. E continuiamo parlando di Yellow Biafra, mettiamo un pezzo di dei Ministri, che è un pezzo antichissimo praticamente, che è del 1985. Era un singolo, il lato A era All Day il brano, e questo si chiama Every Day is Halloween. Sono dei Ministri irriconoscibili a chi non li ascolta seriamente, perché non hanno chitarre distorte, è quasi un gruppo new wave. Ce l'andiamo ad ascoltare, secondo me comunque sono sempre degni di nota i Ministri. A breve mi piacerebbe fare uno special su di loro, che ci sarebbe veramente tanto da dire. Ora appena mi slego e divento più umano come DJ, la farò. Ascoltiamoci Everyday is Halloween, che è un pezzo dell'85, per cui c'ha quelle sonorità lì, non vi scandalizzate. Tanto col vecchio zio Al uno si scandalizza sempre, per cui vai. We'll be right back. 8 Hertz Radio Wombat. Abbiamo sentito un pezzo antichissimo dei Ministri, adesso sentiamo sempre un pezzo legato comunque ai Ministri, ovvero è un progetto che ha fatto Paul Barker, che è l'altro compare di Zio Al, che insomma ci ha fatti i dischi migliori secondo me, ovvero Paul Barker, che insieme a Max Brody ha fatto questo progetto che si chiama Pink Anvil, e un disco dei due che hanno fatto si chiama Halloween Party del 2003. È una cosa molto più ambientale, un po' industrial ovviamente, abbastanza horror, diciamocelo. Andiamo a sentire questo pezzo che si chiama Rubber Suite parte 2. Secondo me è molto interessante. Research funded by the National Institute of Justice indicates that drug abusers engage in violent behavior more often than we were led to believe. The mental picture of the drowsy, placid heroin user has been replaced by one of the far more dangerous crack cocaine users. And recent studies have shown that everybody watching TV to see this thing on my face. The main thrust of the HHS effort is carried out through the Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Services Block Grant. This is Side B, Audio Digest Family Practice, Volume 27, Number 40. And here again to resume his comments on Burns and Thurman. Eccoci, abbiamo ascoltato un po' nella prima parte di questo speciale tutti dei brani che avevano a che fare con Halloween o che avevano come titolo Halloween o come disco titolo Halloween e qualcos'altro. Adesso andiamo su, scavalchiamo un po' e andiamo su la cosa horror di alcuni pezzi. E su diversi livelli, musica rituale, musica narrata, con delle storie abbastanza pesanti e tristi. Però intanto vi volevo ricordare che siete su Radio Wombat, questo è 8 Hz, e vi do qualche contatto. Il sito è wombat.noblogs.org, ovviamente Wombat con la W, con la W doppia. Poi c'è un account di Twitter che si chiama Radio Wombat Feed, perché ci sono varie Radio Wombat in tutto il mondo. Poi c'è un account su Facebook che si chiama Radio Wombat Firenze, e poi c'è anche l'indirizzo di posta nel quale, se volete, potete lasciarci commenti sulle nostre cose, che si chiama Posta Wombat, sempre con la W, Posta Wombat chiocciola wet in Siberia .net. Adesso per quanto riguarda il discorso che facevo prima sulle storie che ci potrebbero stare bene per Halloween, che è una cavolo di festa americana, vorrei mettere un pezzo che ha un testo molto bello, è un pezzo di Nick Cave, quindi insomma è molto conosciuto. Tratto da, oddio, mi viene un piccolo lapsus, da Murder Ballads, che è un disco del 96, sono tutte brani che hanno a che fare con assassini, uccisioni, psicopatici, psicopatiche, borderline, tutto quello che vi pare. È la prima traccia dell'album, che si chiama Song of Joy, narra di una persona che bussa a casa di una famiglia, gli chiede se può entrare e gli spiega la situazione, che lui stesso aveva una famiglia e a un certo punto li hanno uccisi tutti, e se per favore alla fine poi, cioè, è rimasto solo al freddo, se poteva entrare in casa. Però quando dice se poteva entrare in casa, cioè, capite chiaramente dal gesto che fa Nick Cave o Nicola Caverna che insomma potrebbe essere lui l'assassino. Per cui ce ne andiamo ad ascoltare Nick Cave, Song of Joy. Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago, I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. All things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure. Hit it. Woke to find her weeping, and for many days to follow. She grew so sad and lonely, became Joy in name only. Within her breast there launched an unnamed sorrow, and a dark and grim force set sail. Farewell, happy field, where joy forever dwells. Hail, horrors, hail. Was it an act of contrition, or some awful premonition, as if she saw into the heart of her final blood-soaked night, those lunatic eyes, that hungry kitchen knife? Oh, I see, sir, that I have your attention. Well, could it be? How often have I asked that question? Well, then in quick succession, we had babies, 1, 2, 3. We called them Hilda, Hattie, and Holly. They were their mother's children. Their eyes were bright blue jewels, and they were quiet as a mouse. There was no laughter in the house, no, not for Hilda, Hattie, or Holly. No wonder people said, poor Mother Joy, so melancholy. Well, one night there came a visitor to our little home. I was visiting a sick friend. I was a doctor then. Joy and the girls were on their own. Yeah. Electrical tape in her mouth, a gag. She'd been stabbed repeatedly and stuffed into a sleeping bag. In their very cots, my girls were robbed of their lives. Method of murder, much the same as my wives. Yep, method of murder, much the same as my wives. It was midnight when I arrived home. Said to the police on the telephone, someone's taken four innocent lives. They never caught the man. He's still on the loose. It seems he's done many, many more. Quotes John Milton on the walls and the victim's blood. The police are investigating at tremendous cost. In my house he wrote his red right hand. That I'm told is from Paradise Lost. The wind round here gets wicked cold, but my story's nearly told. I fear the morning will bring quite a frost. So I have left my home, I drift from land to land. I am upon your step, and you are a family man. Outside the vultures wheel, the wolves howl, the serpents hiss. And to extend this small favor, friend, would be the sum of earthly bliss. Do you reckon me a friend? The sun to me is dark and silent as the moon. Do you, sir, have a room? Are you beckoning me in head? happy fields where joy whenever ends, hail solar hails. Era una frase del Paradiso Perduto, e viene citata appunto anche nel testo di Nick Cave. L'altro pezzo che vorrei farvi sentire in realtà è hard, perché ce ne avrei due, ma forse è tardi, quindi non ce la famo. È di un duo che si chiamano i Those Poor Bastards, americani, e sono secondo me parecchi di fuori. Fanno una roba tra il folk, lo psychobilly, e vi metto un pezzo che si chiama No One, che è di un disco del 2008 che si chiama Lucifer Watching, no? Satan is Watching, scusate. Rimanda un po' a un Avalanche di Leonard Cohen, cioè se l'ascoltate ci trovate un po' lo stesso modo di cantare, con un testo veramente deviato che parla di un tipo che è psicopatico, che dovrebbe essere fermato fisicamente perché la sua mente vorrebbe fare altro, però non ne fa. Per cui ve lo metto, è un altro pezzo acustico, ma loro fanno roba anche un pochino più power. Lo ascoltiamo, Those Poor Bastards, No One. O fate finta che sia di Leonard Cohen. I'm not the beast they've made me out to be. I've done some good things. I've done some good things. Like you, I have stumbled once or twice and done some bad things. I've done some bad things. My body is a thing corrupt and wrong. It is guilty. Yeah, it is guilty. My spirit is the thing that's dragged along. It is innocent, Lord, it is innocent. Oh, separate my body from my soul. Oh, separate my body from my soul. Let's go back to how things were back then, when I was younger, when I was younger. Everything was either black or white. It was easier. So much easier. Now everything, it looks so gray. I'm older. Now I'm older. Show me a man who deserves to die. You cannot convince me. You cannot convince me. Now show me a man who deserves to live. You have no evidence. You have no evidence. Separate my body from my soul. Oh, separate my body from my soul. I tried so hard to tell you truth, but I lied to you. I have lied to you. The things that you learn and know so well, they are fleeting. Yes, they are fleeting. You're the one who told me who I was. You said you're no one, so now I'm no one. Oh, separate my body from my soul. Separate my body from my soul. Ecco, sì, dopo aver ascoltato i Those Poor Bastards, passiamo un po' al finale, che è un po' lunghino perché i pezzi sono lunghi, a parte quello che vi sto proponendo, che ha a che fare con le streghe, rubando un po' il soggetto al programma precedente. Questi sono i Blackbeard Realm, che sono un gruppo folk punk che ho avuto il piacere di ascoltare totalmente acustici a Terra Salvaria, che lo fanno sulle Dolomiti ogni anno, una festa molto speciale. A parte perché sei veramente sotto le Dolomiti, ma anche perché non c'è uso di energia elettrica, c'è un grande fuoco che, nonostante la pioggia, continua a resistere ed essere fermentato, quella è la birra. Loro sono un gruppo americano di Santa Cruz. Vi faccio sentire questo pezzo, che appunto si chiama Witches, che è del 2008. Sono anche molto ambientalisti e agguerriti. Qui sono un gruppo molto interessante, e mi piacerebbe che suonasse a Firenze, anche se ho capito bene ha suonato a Firenze un annetto fa in sordina, invece si meritano parecchio. Ok, li ascoltiamo. Blackbeard Realm, Witches, perché ora inizia il tema streghe. Into the casket. ascoltato i Blackbeard Realm con Witches, ed ora, sempre indagando sulle streghe, vorrei fare ascoltare un pezzo degli Axan Clock. Axan in realtà è una parola che è molto usata in Danimarca. Praticamente nel 1922 Benjamin Christensen, che è un regista, fece un film che si chiama proprio Axan, che parlava sull'accanimento dell'Inquisizione su le persone un po' diverse, diciamo, donne un po' diverse, che venivano considerate streghe. Per cui Axan è un po' una bandiera di tutto questo. Il pezzo che andiamo a sentire in realtà sono due, perché era troppo bello da separare, degli Axan Clock, che è un tipo in realtà da solo che fa musica elettronica un po' rituale, un po' occulta. Si chiama Excavation parte 1 e 2 ed è del 2013. È un po' lunghino, ma ne vale la pena. Thank you. di Axan Clock per 8 Hz. Credo sia un pezzo bellissimo. Rimangono due pezzi. Uno è una chicchina, che è dei Residents, che sono un gruppo completamente pazzo. È un live proprio fatto nella notte di Halloween nel 2003 a House of Blues a Hollywood, che lo vado subito a mettere. La qualità è un po' pessima, però questo c'è, è proprio una chicca. Intervento dei Residents, che ci sta sempre bene. Metto l'ultimo pezzo. Intanto ringrazio chi è arrivato alla fine di 8 Hz e spero che gli sia arrivata una botta colossale, perché l'intento sarebbe questo. Metto un pezzo di un tipo italiano di Roma, della scena di Roma, per quanto faccio scrivo la scena, però è di Roma, che si chiama Mai Mai Mai Neva Neva Neva, ovvero Tony Cutrone, che milita anche in altri gruppi, tra cui anche Metro Cloud, di cui fa parte anche un membro degli Holiday Inn, che sono un gruppo fighissimo. Andiamo ad ascoltare questo pezzo tratto da Pet, si chiama Bass, insomma è un gran casino perché è in greco, io lo conosco, non lo conosco, non che lo conosco male. È un grandissimo pezzo e fa veramente della bella musica. Ci lasciamo così, 8 Hz, Radio Wombat. Per chi c'è, mercoledì prossimo, spero di esserci anch'io. Vediamo, dai, proviamo. È tutta una prova. La vita è una prova. Arriva. Mai mai mai. Ultimo pezzo su 8 Hz. Radio Wombat. Noto dato di saluto. Thank you.